البلاد طردوا الأجداد صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو فلسطين عربية حرة أبية القدس إلنا يا أحرار قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو قالوا يا سلام أو يا سلام لا صفقة بدنا ولا استسلام قاومنا دفعنا Buongiorno Palestina, 161esima trasmissione su Radio Wombat. Venerdì 5 dicembre abbiamo registrato alcune interviste volanti al presidio davanti alla prefettura di Firenze a sostegno di Mohamed Shahin, imam di Torino, arrestato e a rischio di espulsione per aver pronunciato una frase in cui non giustifica ma spiega la sortita palestinese dall'assedio di Gaza il 7 ottobre 2023. L'intento dell'accusa sembra rientrare in un quadro ben più ampio, cioè quello di voler riconoscere a tutti i costi l'esistenza di una rete di Hamas sul territorio europeo. Questo obiettivo è da tempo dichiarato da Pasquale Angelo Santo, coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, e dall'UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dalle quali ci dispiace vedere l'asservimento agli interessi del governo israeliano e la complicità nell'attacco alla libertà di opinione in Italia. È questo un tentativo che assomiglia, per certi versi, a quanto Trump sta cercando di fare negli Stati Uniti, inventandosi pericoli e crimini inesistenti per giustificare abusi polizieschi con il chiaro intento di eliminare chi lo contesta. Secondo questo modo di vedere e di operare, gli accusatori si aggrappano ad ogni pretesto e ogni discorso che tenda a spiegare il 7 ottobre equivale per loro ad approvare Hamas e sostenerlo. Questa trasmissione va in onda nel corso di una intensificazione delle tensioni con la sindaca di Firenze, Sara Funaro, riguardo alla Palestina. Ciò per i ritardi in cui si stanno dando seguito agli impegni sulla questione palestinese, ma anche a seguito del diniego della sindaca alla concessione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Tale diniego è stato espresso, infatti, scavalcando la discussione nella Commissione Pace e quindi in modo autoritario. A seguito di tali posizioni, lunedì prossimo, 15 dicembre, è stato indetto alle ore 15, in corrispondenza all'Assemblea del Consiglio Comunale, un presidio in Piazza Signoria, a cui stanno aderendo un numero crescente di organizzazioni. Ne abbiamo parlato con Monica di Firenze per la Palestina e Sanitari per Gaza. È partita il 29 novembre la campagna per la liberazione di Marwan Barghouti. Nella seconda parte della trasmissione ascolterete l'intervista di Radio Onda Odurto a Roberto Giudici, esponente del Comitato Nazionale Italiano Free Marwan, e l'appello e a seguire l'appello di Ofer Kassif, deputato di Hadash. Troverete il link per firmare per la liberazione di Marwan Barghouti sulla pagina della trasmissione di oggi. venerdì 5 dicembre, folto presidio davanti alla prefettura di Firenze a sostegno di Mohamed Shahin, arrestato per una frase sul 7 ottobre 2023 e sotto minaccia di espulsione, pur essendo stata esclusa per lui l'ipotesi di reato sia da parte del procuratore che da parte del giudice per le indagini preliminari. Dopo una presentazione da parte dell'imam di Firenze, Izzedine Zir, che conosce benissimo Shahin, ecco alcune voci al presidio e per prima quella di Seneca, di ultima generazione, un movimento di attivisti contro i cambiamenti climatici fondato nel 2021 e attivo soprattutto in vari paesi europei come Italia, Germania, Austria, Polonia e Francia. Allora Seneca, al presidio per Shahin oggi stiamo vedendo persone anche nuove che di solito non ci sono, te lo spieghi questo fatto? Allora io sono molto contenta per le persone nuove, probabilmente anche l'associazione di seconde generazioni ai participate che noi rappresentiamo ha attirato un diverso, diciamo, contesto della comunità che oggi è presente al presidio e probabilmente l'attenzione sulla questione palestina, su quello che sta succedendo non soltanto fuori dall'Italia, ai nostri confini, a Gaza, ma anche in Italia ha attirato l'attenzione e la preoccupazione di persone nuove. Noi siamo molto contenti che la consapevolezza e la coscienza si siano risvegliate e rimangano vigili sulle gravi violazioni che stanno accadendo ogni giorno non soltanto nel nostro paese ma nel mondo. Quindi dobbiamo essere un presidio sempre presente con ancora più persone, allargare ovviamente la visione, le nostre idee e una narrazione corretta di quello che succede al nostro presente e anche al nostro futuro. Grazie Seneca. Ah ok, dici la tua. Ok, allora niente, io mi chiamo Maria, sono di Firenze per la Palestina e sono anche del BDS, Boycott, Disinvest, Sanction. Allora sono molto felice che ci sia stata questa iniziativa che è stata convocata da giovani, perché stiamo vedendo che si stanno muovendo molto anche i giovani. Quello che è il momento è molto importante, questo del risveglio soprattutto dei giovani, perché ci stanno rubando la democrazia. Nel momento in cui si crea il reato di opinione, cioè non è più possibile esprimere liberamente un'opinione, veramente ci stanno levando la democrazia. Quindi il fatto che sia stato mandato in un CPR una persona che vive in Italia da 20 anni, che non causa nessun pericolo semplicemente per una affermazione che fra l'altro ha anche ritrattato, che venga mandato in maniera così, insomma, anche in sordina in un CPR, quindi un luogo dove lui rischia di essere deportato e rischia anche la vita, perché tornando nel suo paese rischia di essere appunto anche catturato, perché lui è un dissidente nel suo paese, in Egitto. Quindi diciamo che è importante soprattutto le nuove generazioni si sveglino, perché siamo in un momento veramente preoccupante per la democrazia in Italia, nel mondo, nei paesi cosiddetti occidentali, perché i poteri forti non gli interessano i cittadini, gli interessa solo il guadagno, il profitto, fare guadagno sulle armi, mandare giovani in guerra. Ecco, questa è la situazione, quindi dobbiamo andare avanti, dobbiamo essere presenti e un'altra cosa molto importante, stiamo attenti perché si vogliono prendere anche il potere giudiziario, perché hanno approvato una legge per cui il governo, anzi il Parlamento, quindi il governo di maggioranza nel periodo, diciamo, in cui c'è quella maggioranza, può decide di fatto chi sono i membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Perciò di fatto non ci sarà più questa separazione fra potere giudiziario e potere legislativo e potere esecutivo, che è la base della democrazia. E quindi invito tutti coloro che mi stanno ascoltando a essere pronti quando ci sarà il referendum abrogativo di questa legge, essere pronti a votare no e a promuovere, a portare i cittadini a votare, perché fra l'altro sarà un referendum dove non c'è bisogno del quorum, quindi è importantissimo andare. Qualcuno ha fatto notare una certa somiglianza tra la posizione di Funaro a Firenze e quelli che hanno imprigionato Shaheen a Torino. Cioè la somiglianza è questa, è l'aggrapparsi a ogni pretesto, anche minimo, per sostenere le loro posizioni. È una visione corretta questa? No, assolutamente, cioè è un momento dove appunto sta passando l'idea del reato di opinione, fra l'altro non in termini generali, perché poi vediamo che ci sono esponenti della maggioranza che o comunque di una certa identità politica che parlano anche con affermazioni proprio corrette, però diciamo essendoci la libertà di opinione va bene, si esprimono, no? Poi ci sono addirittura cose invece assolutamente illegali, come persone che inneggiano al duce, cosa che in teoria per la nostra Costituzione sarebbe anticostituzionale. Allora questo va bene, mentre esprimere un'opinione o comunque parlare magari non perfettamente, correttamente, anche quando uno poi si scusa o ritratta perché magari si rende conto di non aver usato i termini giusti, insomma, anche in questo caso qui si rischia grosso in questo momento. E diciamo ci sono esattamente, anche la Funaro si è attaccata a, diciamo, forse un'espressione non propriamente corretta dell'albanese, la quale però si era già corretta nei giorni successivi, quindi fra l'altro ha espresso tutto il suo supporto anche alla stampa, quindi è stato estrapolato proprio un pezzettino di un discorso levandolo dal contesto, quindi era stata proprio una cosa, un pretesto, ecco, che viene usato. Grazie Maria, da presidio per Shaheen a Firenze. Alle ore 15, in corrispondenza all'Assemblea del Consiglio Comunale di Firenze, ci sarà un presidio in Piazza Signoria su diverse questioni, in particolare alcune su cui il Consiglio Comunale si era impegnato. Ne parliamo con Monica di Firenze per la Palestina e Sanitari per Gaza. Lunedì 15 alle ore 15, presidio a Palazzo Vecchio per la Palestina. Ne parliamo con Monica di Sanitari per Gaza e Firenze per la Palestina. Quali sono gli obiettivi di questo presidio? E dunque, gli obiettivi di questo presidio sono vari. Intanto c'è stato già approvato un ordine del giorno presentato da Dmitry Palagi sull'interruzione del rapporto istituzionale con Israele, e la nostra richiesta è che venga applicato, che non rimanga lettera morta. Poi la richiesta che il Comune di Firenze aderisca al BDS, cioè l'azione di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele, e quindi verifichi se ha in atto degli accordi con aziende, tra quelle segnalate nel report di Francesca Albanese, che sono complici di genocidio, e in questo caso receda da questi accordi. Poi l'altra richiesta, insomma, sottolineatura, non è rivolta tanto al comune quanto, quanto al governo, per il ritiro della definizione AIRA. Ecco, ma mi pare che, tra, che ci sia anche una questione che riguarda la sindaca di Firenze, e questo anche è tra gli obiettivi dei, del presidio. Dico la sindaca di Firenze riguardo alla questione della cittadinanza a Francesca Albanese? Eh sì, prima finisco di dire che anche il comune di Firenze ha aderito alla definizione dell'AIRA di antisemitismo, che equipara l'antisemitismo all'antisionismo e alle critiche contro Israele, però non ha approvato gli esempi, che sono la parte più problematica della definizione, che però di per sé anche la definizione stessa è più, diciamo, meno approfondita di altre definizioni come quella di Gerusalemme, che sono invece più corrette dal nostro punto di vista. Quindi tornavo a dire che c'è comunque anche, ci sono anche dei decreti legge, delle proposte sia di Gasparri che di Del Rio, e quindi noi chiediamo anche, la nostra posizione è anche contro di questi. Più c'è questa cosa molto grossa che è successa, cioè che la sindaca Funaro ha espresso alla fine del Consiglio Comunale di 2 lunedì fa la sua posizione nettamente contraria a dare la cittadinanza ad Albanese, alla Francesca Albanese. Questo è grave per 2 motivi. Il primo di merito, perché la Francesca Albanese è stata definita divisiva quando... Da chi? Dalla Funaro è stata definita divisiva? Sì, è stata definita divisiva, cioè una persona che non aiuta ad affrontare il problema nei suoi termini corretti, diciamo. E questo è molto grave perché la Francesca Albanese ha pubblicato dei rapporti che sono dei rapporti che presentano dei fatti documentatissimi, e quindi si dovrebbe entrare eventualmente nel merito dei rapporti che ha scritto, smentendo delle cose se si ritengono che sono sbagliate, ma con dei fatti, con delle prove. Invece, diciamo, questo dire che è divisiva è molto grave perché l'essere divisivi, se si difende i diritti umani, se si difendono i diritti di un popolo, essere accusati di essere divisivi è una cosa veramente grave. Di fatto, su quello che l'Albanese ha pubblicato, dalle sue prime pubblicazioni in poi, si sono sempre dati dei giudizi politici e mai entrati nel merito. Ecco, questo succede anche nelle valutazioni che sta dando la sindaca di Firenze, quindi... Sì, allora stavo dicendo che c'è sia nel merito il motivo per cui noi non siamo d'accordo con le dichiarazioni, è proprio perché non si può definire divisiva una persona che difende i diritti umani a meno di non essere contro il rispetto dei diritti umani. Quindi è un ossimero considerarsi dei democratici e dare del divisivo a una persona che cerca una democrazia sostanziale nel rispetto dei diritti di tutte le persone, del diritto internazionale. E poi c'è stato anche il problema di metodo, perché la sindaca ha scavalcato completamente la Commissione Pace, perché la sua dichiarazione ha preceduto l'incontro della Commissione Pace, che doveva discutere questa proposta fatta da Dmitry Palagi. Quindi, diciamo, ha scavalcato la Commissione e anche, diciamo, i suoi stessi compagni di partito che sono in commissione, oltre a tutti gli altri. Poi certamente queste posizioni che attaccano soprattutto l'Albanese nel suo ruolo di... non attaccano il merito dei suoi rapporti. Cioè, io non ho mai sentito qualcuno che dicesse a pagina 12 del rapporto, del secondo rapporto, o a pagina 77 del terzo c'è questa affermazione che risulta falsa, perché io porto questa documentazione per dire che è falsa. Ecco, questo potrebbe essere un modo corretto per criticare un rapporto fatto da un esperto. Invece questo non è stato fatto. Allora, il 15 alle ore 15, sì, davanti a Palazzo Vecchio. Nella parte di Palazzo Vecchio verso via De Gondi, perché chiaramente in piazza della Signoria c'è il divieto, dobbiamo stare dalla parte dell'ingresso della parte di via De Gondi. È l'unico posto dove ci lasciano protestare. Ci si riconoscerà per via delle bandiere palestinesi. Grazie. Marava! Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza. Traigo en la boca el gusto acre de la pólvora y en el pecho la memoria de los que no volvieron, de las madres que miran el cielo buscando nombres. No somos espectros, somos manos, somos panes, somos canciones. Los que siembran odio recogerán su cosecha de fracaso. No es venganza lo que pedimos, sino justicia. No es odio lo que blindará nuestras filas, sino humanidad. El sionismo no pasará. Los pueblos que resisten jamás serán vencidos. Se alimenta de odio, al fin quedará sin fuerza. Desde las olas del Mediterráneo hasta las llanuras y las colinas, las voces que gritan por Palestina son la voz de la humanidad. No aceptamos la impunidad que compra silencio con poder. No aceptamos que se convierta el dolor en mercancía de unos pocos. Capitales que se enriquecen con la guerra, sus fortunas están hechas de lágrimas y las lágrimas también pesan. La historia juzgará a quienes empuñaron la codicia contra la vida. Los que aman la libertad marcharán con los desposeídos. El sionismo no pasará. Corazones en alto, la dignidad florecerá. Obreros y obreras, campesinos, estudiantes, no descuidemos la unidad, la fuerza está en nuestras manos. Que nadie robe la palabra humano, ni convierta la justicia en mercancía. Veremos las calles llenas de pasos que reconstruyen, no de botas que arrasan. Veremos escuelas, pan en las mesas, hospitales abiertos al sol. No es utopía, es tarea común y cada gesto cuenta como arma de vida. Por cada ceniza sembremos un árbol, por cada lamento un himno. El sionismo no pasará. Venceremos, porque la dignidad esperanza será ley, los pueblos libres escribirán el mañana. Por Palestina, por todos los pueblos que resisten, por la vida que no se rinde. Continua e si allarga la campagna internazionale Free Marwan per la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi e in particolare di Marwan Barghouti, popolarissimo leader palestinese sepolto dal 2002 nelle galere israeliane. In Italia la campagna è attiva dal 29 novembre 2025. Ascoltiamo ora un appello per Marwan Barghouti da parte di Ofer Kassif, deputato ad Ash del 5 dicembre 2025, che ci parla dello stato di salute di Marwan. Hello dear friends, I'm sending you this video as a matter of urgency. I just got terrible news about the situation of Marwan Barghouti in the Israeli prison. He's been severely tortured and beaten. They broke his ribs, his fingers and his teeth. Part of his ear was cut. And I'm really worried about his life. Please do whatever you can in order to stop this ordeal he's been going through. Marwan must be released. First and foremost, for his own life. Secondly, because as we all know, he's a leader. He can lead the Palestinian people and the whole. Cari amici, sto inviando questo video con urgenza. Ho appena ricevuto una terribile notizia sulla situazione di Marwan Barghouti nella prigione israeliana. È stato gravemente torturato e picchiato. Gli hanno rotto le costole, le dita e i denti. Una parte del suo orecchio è stata tagliata. Sono davvero preoccupato per la sua vita. Per favore, fate tutto il possibile per fermare questo calvario che ha attraversato. Marwan deve essere rilasciato prima di tutto per la propria vita, in secondo luogo perché, come tutti sappiamo, è un leader che può guidare il popolo palestinese e l'intera area per un buon futuro. Per favore, aiutateci. Grazie. Ascoltiamo ora su Radio Onda d'Urto l'intervista a Roberto Giudici, esponente del Comitato Nazionale Italiano Free Marwan. Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento telefonico con Roberto Giudici del Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. Roberto Giudici, intanto grazie per la disponibilità e di essere qui con noi. Figurati, grazie a voi. In particolare, in questa intervista con te vogliamo approfondire con ascoltatori e ascoltatrici la conoscenza della figura di Marwan Barghouti, leader di Fatah, dell'ala sinistra di Fatah, detenuto nelle carceri israeliane dall'aprile del 2002, quindi da 23 anni. Iniziamo, Roberto Giudici, dallo spiegare chi è Marwan Barghouti e qual è la sua storia politica all'interno del movimento di liberazione palestinese. Sì, allora dunque Marwan nasce il 6 giugno del 1959 in un villaggio vicino a Ramallah. La famiglia Barghouti è una famiglia molto conosciuta in quell'area, perché ci sono diversi personaggi in... Uno dei Barghouti è tra i fondatori del Partito Comunista Palestinese, poi c'è un Hafez Barghouti, giornalista molto affermato in Medio Oriente, c'è Mustafa Barghouti che conosciamo perché è presidente dell'Associazione Medical Relief ed è stato, diciamo così, nelle elezioni di Abu Mazen il secondo in termini di voti, quindi insomma è una famiglia molto, molto conosciuta. Marwan dall'età di 8 anni, dopo il 67, vive sotto l'occupazione israeliana della Cisgiordania e diciamo a 15 anni si iscrive ad al-Fatah, al partito che poi sarà per sempre, diciamo così, il suo partito. Da subito diventa un animatore politico. In quegli anni viene arrestato per la prima volta a 16 anni e viene espulso dalle scuole secondarie. Il secondo arresto è nel 1978, 19 anni, e questa volta però fa 5 anni, rimane in prigione per 5 anni. In carcere si diploma, impara l'ebraico e il francese. Poi si iscrive all'Università di Birzeit, dove viene eletto appunto leader degli studenti, ma viene ancora arrestato nel 1984 e poi di nuovo l'anno seguente nell'85. Comunque riesce a laurearsi all'Università di Birzeit, un'università che c'è vicino a Ramallah, in scienze politiche, e poi conseguirà un master in relazioni internazionali. Marwan è molto interessato all'Europa, infatti ha proseguito con l'imparare il francese perché ha sempre pensato che l'Europa potesse avere un ruolo indipendente dagli Stati Uniti nei confronti della questione israelo-palestinese. Purtroppo si è sbagliato in questa speranza che lui riponeva nell'Unione Europea. Comunque, diciamo, Marwan da subito nel partito è una figura importante perché riorganizza soprattutto i giovani del partito, crea comitati popolari per il lavoro e per la vita sociale, crea i comitati popolari, aiuta a creare i comitati popolari per le donne, diventa un leader e infatti nel 1978 viene espulso dalla Palestina dagli israeliani in prima persona dall'allora ministro della difesa Rabin. E quindi lui dalla Palestina si trasferisce ad Amman. L'8 dicembre dell'87 nasce la prima intifada, ispirata da Tunisi, da un grande dirigente palestinese che si chiamava Abu Jihad, che poi viene assassinato dagli israeliani nei pressi di Tunisi. Marwan diventa uno stretto collaboratore di Abu Jihad perché durante appunto la prima intifada Marwan fa da collegamento tra la centrale di Tunisi e i territori occupati passando da Amman, e tant'è che Marwan è talmente importante nei territori occupati al punto che è uno dei membri del Comitato Unitario per l'Intifada, che comprendeva solo elementi palestinesi dei territori occupati. Marwan invece diventa appunto membro di questo Comitato Unificato, pur essendo fuori dai territori occupati, pur essendo ad Amman. E poi nell'89 viene eletto nel Consiglio rivoluzionario di Al-Fatah come membro più giovane, quindi già appunto nella sua giovinezza è una figura molto importante. Marwan lavora intensamente per gli accordi di Oslo, lui ci crede fermamente e dopo la firma degli accordi può rientrare in Palestina. E si spende molto appunto per la realizzazione sul terreno degli accordi di Oslo. Viene nominato segretario di Fatah per la Cisgiordania e il suo impegno soprattutto per la riorganizzazione del partito e soprattutto una riorganizzazione che comincia a porre delle critiche al partito stesso e all'autorità nazionale palestinese che nel frattempo si era insediata. I due punti della sua critica erano per la democratizzazione sia del partito che dell'autorità nazionale palestinese, e soprattutto era una critica contro la corruzione che stava diventando molto evidente tra i vertici dell'autorità nazionale palestinese. Comunque, nonostante queste critiche, lui rimane un sostenitore indefesso degli accordi di Oslo, nonostante le grandi difficoltà e le disillusioni che già si cominciavano ad incontrare verso la fine del 2000, perché appunto le colonie continuavano ad aumentare, il ritiro dell'esercito israeliano dalle aree palestinesi che era stato concordato non avviene o avviene molto lentamente e in pochissimi casi, e quindi la disillusione c'è, però Marwan continua a credere in questa prospettiva. Alla fine degli anni 90, dopo l'assassinio di Rabin, però anche Marwan cresce la disillusione nel confronto degli accordi di Oslo e quindi comincia a capire che questi accordi non porteranno a nulla e si dedica soprattutto, appunto, mentre fino a pochi mesi prima, fino agli anni precedenti, cercava in tutti i modi di tentare di realizzare quello che era scritto negli accordi, da un certo momento in poi, appunto, capisce che questo non è possibile e si dedica alla resistenza. Lui descrive quel periodo con una frase molto significativa: diceva, abbiamo tentato la strada dell'intifada per 7 anni senza negoziare, poi abbiamo negoziato per 7 anni senza intifada, ora dice forse dobbiamo tentare entrambe le strade contemporaneamente. In pratica lui dice continuiamo nella trattativa ma senza fermare l'intifada. Anche questa posizione lo mette un po' in conflitto con la parte conservatrice dell'autorità nazionale palestinese. Comunque Marwan, appunto, alla fine degli anni 90, comunque lui si mette alla testa della protesta popolare che cresce giorno dopo giorno a causa del fallimento degli accordi di Oslo. Marwan è un leader laico, non ha mai, diciamo così, militato in movimenti religiosi, e quindi ha una visione molto laica della situazione. Si mette a capo del volere popolare, insomma, dei sentimenti popolari di rivolta contro gli accordi di Oslo, e questo sfocia poi alla fine nella seconda intifada. La seconda intifada è un momento cruciale ma anche difficile, perché a differenza della prima intifada, che ha avuto un carattere popolare di massa molto allargato, la seconda intifada, a causa della repressione brutale dell'occupazione, diventa spesso un'intifada armata, e Marwan ha una posizione molto precisa anche rispetto a questo. Se Marwan ha sempre naturalmente rivendicato il diritto alla resistenza anche armata nei confronti dei coloni e dei militari israeliani nel territorio occupati, Marwan non ha mai appoggiato gli attentati e le operazioni militari in territorio israeliano. Lui diceva, e questo l'ho sentito nei vari incontri che abbiamo fatto con lui diceva: dobbiamo mandare un segnale, un messaggio molto chiaro alla popolazione israeliana, che il nostro obiettivo è quello di liberare i territori per costruire il nostro Stato, e quindi la lotta armata va bene, ma va bene nei territori occupati. Ciò nonostante questa posizione molto razionale, naturalmente Barghouti diventa il bersaglio principale di Israele e viene sottoposto a diversi tentativi di assassinio, soprattutto appunto a cavallo degli anni 2000-2001, due volte a Gaza con missili e bombe nelle auto hanno tentato di uccidere Marwan, e poi a Ramallah nel 2001. E in questo contesto Marwan viene indicato da Israele come la mente degli attentati che avvenivano in quegli anni in Cisgiordania e anche in Israele, nonostante appunto la posizione, che dicevo prima, molto chiara, molto cristallina di Marwan. Marwan continua nell'organizzazione della resistenza, soprattutto è diventato, diciamo, l'elemento, il punto di riferimento fondamentale per i giovani di Al-Fatah e per i giovani in generale. E lui, nonostante questa situazione, non cessa di criticare le posizioni della ANP, la corruzione, la mancanza di democrazia, e spera sempre in un In un congresso del partito di Al-Fatah, sempre promesso e poi mai realizzato, nel quale poter cambiare la classe dirigente a favore dei molti giovani che lui aveva organizzato, aveva indirizzato nella lotta di resistenza. E diventa sempre più leader dei giovani, principalmente, ma di tutta la popolazione, tant'è che con l'aggravarsi della malattia di Arafat, il suo nome è quello sempre più indicato come suo successore. Quando muore Arafat, che è l'11 novembre del 2004, Marwan però è già in prigione perché appunto viene arrestato nell'aprile, il 14 aprile del 2002, durante un'operazione israeliana di rioccupazione di tutte le grandi città palestinesi. In quell'occasione Marwan viene arrestato e viene messo in carcere e nonostante il fatto appunto di essere in carcere, il suo nome diventa il nome principale per la successione di Arafat. Marwan ci pensa, addirittura in un primo momento dà il suo assenso alla candidatura, ma poi, tant'è che alcune pool, diciamo, negli istituti di ricerca palestinesi, prima delle elezioni davano Marwan al 43-44% contro Abu Mazen che arrivava al 38-39%. Però naturalmente grandi pressioni esterne, interne da moltissime parti fanno sì che diciamo così, Marwan si ritirasse dalla candidatura e lui diciamo così, questa scelta la motiva anche in un'intervista nel 2005 a un settimanale italiano Panorama, nel quale lui dice: cioè, no, mi sono ritirato perché non voglio neppure lasciare un alibi agli israeliani e agli americani per poter dire che gli accordi di pace sono falliti a causa della radicalità di Marwan Barghouti e quindi lui si ritira diciamo così, dalle elezioni che finiscono con la vittoria di Abu Mazen. Da quel momento in poi, appunto, Marwan è in prigione e continua, possiamo dire, la sua intifada dalle prigioni israeliane. Diverse volte, in occasione di scambi di prigionieri, il nome di Marwan esce per tentativo di una sua liberazione, ma questo non è mai avvenuto. Oggi riprendiamo questa parola d'ordine perché ci pare che, appunto, in una situazione così tragica e così difficile per il popolo palestinese, ci pare che l'unica persona in grado di poter, in una maniera lucida, razionale, riuscire a ricostruire una prospettiva, di liberazione per il popolo palestinese possa passare per la figura di Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, appunto, come dalle cose che ho detto prima, è sempre stato un uomo di partito, è sempre stato un uomo di Al-Fatah, ma in un modo molto, molto, diciamo così, tra virgolette, autonomo, molto, molto critico, molto sempre tendente all'innovazione, è sempre stato un uomo del popolo, ha sempre cercato di collegare la popolazione con le istituzioni palestinesi. Noi abbiamo fatto in quegli anni moltissimi incontri con lui, con Marwan, e facevamo riunioni in case, nelle sedi di Al-Fatah, Ramallah e così via, ma in sedi molto popolari, in quartieri popolari, ed era sempre circondato da un mare di gente che vedeva in lui una possibilità. Purtroppo questo non è avvenuto, però appunto la sua popolarità, il suo carisma, pensiamo che sia ancora importante in Palestina. E per questo motivo la la campagna per la sua liberazione diventa una delle richieste politiche in questo momento per tentare di dare uno sbocco a questa situazione così difficile. Roberto Giudici del Comitato Nazionale Italiano per la Liberazione di Marwan Barghouti, grazie di essere stato con noi qui su Radio Onda d'Urto. Figurati, grazie a voi. Ciao. Era questa la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento per gennaio, sempre il mercoledì alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. بلاك طردوا الأجداد صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو فلسطين عربية حرة غبية القدس إلنا يا أحرار قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو قالوا يا سلام أو يا سلام لا تصابتنا ولا صفقة جو صفقة جو جو جو قالوا ما قانون دولي قانون العدل شفنا ولا سلام لا لا لا لا لا لا لا لا صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا محتل اطلع صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو فلسطين عربية